And when you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sto un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato finito, abbiamo fatto gli studi, se te ne e noi siamo arrivati a questa decisione. Stavo di guardare la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda. Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E ci chiamano per paesi per riuscire a fare assets per tutte le trasmissioni, quelle più importanti del mondo, perché noi abbiamo un reparto di sound engineering, sound design di altissimo livello, dove utilizziamo tutti gli effetti speciali più naturali, ecco, insomma, diciamo così, senza dover andare a ricorrere sempre a questo digitale che ha oramai ci ha rubato la vita, diciamo così. E per parlare anche di questo e di tante altre cazzate questa mattina, dato che non avevo un tema, visto che insomma me lo so giocato martedì e non c'avevo manco martedì tanto un tema, ho invitato insomma un mio amico qui di Runtime Radio, che tra l'altro insomma questo è il periodo in cui abbiamo sdoganato tanti crossover, poi questi crossover che assumono dei titoli sempre più incredibili. Leo Vargheon. Il digitale non ci ha rubato la vita, ci ha rotto il cazzo, hai capito? Ci ha rotto il cazzo, basta col digitale, basta! Non ne possiamo più, basta con sto digitale! È vero, è vero. Il digitale, che era una pianta, mia nonna usava il digitale, non so per fare cosa. No, non fate. Intanto salutiamo Walter in chat, che ci dice che lui sente tutto normale. Sì, sì, ma il problema è che l'apertura di Zoom ha mandato in crisi Bat, perché stiamo lavorando con Zoom questa mattina. In realtà volevamo fare anche un esperimento, andare su Twitch, ma penso che la prima diretta vera di Runtime su Twitch è rimandata a questa sera, dove nella puntata di Quando Eravamo Futuro, dove parleremo di un tema importante che riteniamo insomma da dover trattare, ossia la sensibilità, la percezione, il supporto che c'era verso le disabilità negli anni 70 e 80, cioè praticamente niente, faremo appunto la diretta su Twitch, quindi ci potete ascoltare normalmente su runtimeradio.it e anche su Twitch, poi avrete insomma i vari link dove potrete vederci, iscrivere, abbonarvi, darci tanti soldi, perché come abbiamo già detto questo è un mese drammatico per Runtime Radio, è il Dunkirk del Runtime Radio questa, perché se superiamo questo mese forse riusciamo anche a arrivare all'estate, se no veramente è dura, perché dopo tantissimo tempo siamo andati proprio sotto di brutto, diciamo, perché ci siamo giocati tutto. Esatto. L'advertising non bene. Detto questo, io invece volevo anche ricordarvi che questa mattina alle 6 è uscita la nuova puntata di Data Nightmare, con la quale mi trovo in accordo di più de 100. Quanto è, se uno può dire che è più d'accordo del d'accordo, non so. Non l'ho ancora sentita, di cosa parli? No? Vabbè, devo che parla sempre delle solite cose, insomma. Per carità di Dio, però nello specifico. Della guerra, parla della guerra. No, in realtà, guarda, è un, più un flusso questa volta più che una vera e propria tematica, insomma, quindi va ascoltata. C'è sempre questa cosa verso l'Europa che un po' cerca di trovare una sua identità, un po' fa la prostituta degli americani, insomma, vabbè. Vabbè, grande classico. Poi vedremo, insomma. Detto questo, io a questo punto invece vi ricordo anche che è uscita, dato che ci siamo, stiamo ricordando le cose che sono uscite, è uscita anche la prima puntata del podcast di Michela, che si chiama Apocrisy, che non è una prima puntata ma una puntata zero, nel quale lei introduce questo suo progetto, che prossimamente, nei prossimi giorni, già uscirà, insomma, con un primo episodio, un episodio zero, dove lei comunque intervisterà varie realtà all'interno del mondo, insomma, degli animali, cani, gatti, sorci, serpenti, un po' tutto. E tra l'altro questa puntata zero ha riscosso un sacco di successo. Mo è vero che lei se l'è ascoltata almeno una decina di volte, quindi già ha sballato i gol. Però, insomma, devo dire, grossa soddisfazione da questo punto di vista. Scusate, me l'ho dimenticato la base. Ed è uscito anche l'ultimo episodio di Il vino lo porto io. Quello è importante, insomma, andate, cliccate, perché forse risolleva un po' gli advertising del prossimo mese, perché oramai questi qua sono andati. Detto questo, io mi ascolterei il primo brano di Leo. Perché così subito, sì, se lo togliamo subito dai coglioni, sì. Ci volevi chiudere la puntata? No, subito. I brani subito, dai, così almeno è più facile intercettarli per me e cancellarli nella versione podcast. Giustamente. Quindi vai, Leo, no, presentaci il bevano. Allora, una band che sia a me che a te ci sta particolarmente a cuore, e non poteva essere altrimenti per questo crossover super, super improvvisato, che spero veramente ce ne saranno altri, perché ci sta veramente fare una puntata a due voci. Direttamente dalla gelida ma bellissima Finlandia tornano qui su Runtime Radio gli Amorphis con Silver Bride. E bravi gli Amorphis, che, insomma, salutiamo con questo loro bellissimo brano. Poi non so neanche se era questo il brano che volevi. Sì, era lui, solo che giustamente, non so, forse ti ho linkato io un live per sbaglio. No, in realtà tu mi hai linkato giusto, solo che io ho preso il titolo della canzone, sono andato nel mio archivio, c'era scritto edit, e quindi ho pensato che fosse la versione, invece no, era la versione live. Però sì, invece sì, scrive edit, scrivi live, cazzo, no? Cioè, voglio dire, vaffanculo, brutto Amorphis del cazzo. Comunque, adesso noi continueremo tutto il resto della trasmissione ballando così. Assolutamente. Esatto. E ne verrà bene. C'è un tema che dopo, insomma, tratteremo, ma come capirete questa non è la solita puntata del Buongiorno un cazzo, né la solita puntata di Il Mattino Loro in podcast, perché così questa volta volevamo essere un po' più discorsivi. Tra l'altro aggiungo anche il fatto che Michela, giustamente, ma me l'ero appuntato di dirlo, però poi mi era sfuggito tra l'enfasi di tutto, giustamente nella puntata di sabato mattina nel nostro crossover poi ci spiegherà bene sia dell'accoglienza che di come andrà avanti il progetto, e questo ovviamente mi fa più piacere. Ero curioso di sapere, gli Amorphi sono come la qualità, però che vuol dire? La qualità ci ha rotto il cazzo. Ah, ok, ci ha rotto il cazzo, sì, giusto. Ah, sono come la qualità ci ha rotto il cazzo. Tra l'altro devo dire che a me piacciono, non li conoscevo proprio, non sapevo zero, però a me questo metal qua mi piace, cioè, nel senso, anche se io vado pure verso il un po' l'epic, il gothic, quelli sono molto fanfarosi, quelli da fantasy, capito? Mi piacciono quelli, mi piacciono tanto a me, perché sei di vecchia scuola. Sì, beh, ma io sono vecchio, quindi conseguentemente ne subisco le conseguenze cronologico-temporali. Comunque volevo sapere, ero curioso, lei, ma tu la mattina quando ti svegli che fai? Sì. Perché questa è una cosa di cui il mondo, insomma, vuole sapere. Ma intendi come prima cosa, primissima cosa, oppure che fai la mattina quando ti svegli? Questa è la domanda. Beh, è questa, poi sei tu che devi svicolarti nei meandri della domanda. Mi svicolo. Beh, direi la prima cosa che faccio è pentirmi di essermi svegliato. Questo lo capisco benissimo. Ma e c'è tutta una ritualistica, in realtà, che è a metà, ripeto, fra un rituale e una sveglia militare. Perché? Io dormo assieme a una persona che praticamente ha l'udito di un pipistrello, sostanzialmente, quindi ho già di per sé ho una sveglia che deve fare il meno rumore possibile, infatti è quasi un sussurro la sveglia che ho, più che altro per non dar fastidio alla mia compagna, giustamente, che dorme vicino a me. Vista la sveglia di Leo, fa... Ma siamo lì più o meno, eh. Un giorno ve la uscirò. Quando fateci 100.000 euro di donazioni, vi farò sentire il suono. Vabbè, lo faranno solo per questo, immagino. Esatto, solo per sentire la meravigliosa sveglia di Leo Wagner. La prima cosa che faccio è cercare di lasciare la stanza nel più breve tempo possibile. Quindi mi alzo come un grillo perché devo raggiungere il comò, stoppare la sveglia che ovviamente sta col cellulare. Mi alzo e vado subito a espletare le funzioni corporali, e di cui ovviamente non vi rendo dotti assolutamente. Poi io, siccome ho poco tempo la mattina per, naturalmente, visto che ho, che ne so, 3 giorni a settimana ho la trasmissione, naturalmente mi sono preparato la colazione il giorno prima, naturalmente, quindi faccio colazione, mi vesto, mi do una lavata alla faccia, aspetta, guardo, no, questo, guardo lo specchio, questo mi odio, e poi comincia la routine. Ok, questo mi incuriosisce, cioè in che senso ti prepari la colazione il giorno prima? Beh, io da qualche anno a questa parte ho smesso di mangiare cose dolci la mattina. Ok. Quindi niente latte, niente biscotti, quindi niente di, tra virgolette, preconfezionato, ma mi preparo un toast con un affettato, un formaggio, un po' di rucola, capito? E passa la paura, quindi devo solo tirarlo fuori dal frigo, metterlo nel tostapane. Beh, ok, ok, e passa la paura. Sì, ok, perfetto. Poi che succede? Questa routine, sì, dimmi. No, dico, poi che succede? Vabbè, a parte che ti guardi allo specchio e ti odi, dico, insomma. Sì, quello è normale, insomma. Quindi quando smetto di dare ragione al mio riflesso che mi odia, finisco di fare quello che devo fare. Quando ci riesco mi metto ad allenarmi la mattina pure, perché sul serio mi sento un tronco, mi sento sempre incordato, se provo a fare un qualsiasi tipo di piegamento e mi sento sempre, ripeto, incordatissimo, quindi cerco anche di dare un po' di così di tonicità al corpo con un po' di allenamento mattutino, e poi comincia magari la trasmissione, quindi vado nel mio antro segreto dove ho già piazzato tutto quanto, tutto il mio setup, perché sono una persona particolarmente pigra e scansafatica, e quindi ho bisogno della cosa più plug and play possibile per partire, per fare quello che devo fare. Vabbè, quindi, questo penso vale per tutti, cioè non è che tutta la mattina. Ma guarda che in realtà, secondo me, io, che so, anche un Davide Gatti, io, per carità, io credo che lui sia una persona particolarmente lavorare poco, lavorare intelligentemente, però io sono convinto che se lui deve mettersi lì a rimettere a posto tutto quanto, fare le sue cosine, ricostruire, smontare, montare, lui è pure contento di poterlo fare, di potersi mettere lì. Io non lo so, no. glielo domanderemo, ma però noi, per esempio, qua a Runtime Radio, io la mattina quando vengo devo spingere due pulsanti, cioè non è che mi posso mettere a riconfigurare ogni volta tutto quanto. Esatto, no? Io sposo assolutamente la filosofia di Runtime. Se no sarebbe una follia, no? Diciamo. Ma decisamente. Considerando che alle volte veramente ho iniziato la trasmissione praticamente a ridosso dell'accensione del computer, quindi sì, sono decisamente carente dal punto di vista organizzativo, quindi devo fare le cose in maniera molto preventiva proprio per stare tranquillo, perfetto. Perché altrimenti mi all'ansia e non faccio una sega. Perfetto, questo lo capisco. Ma tu di solito, perché questa è, ci introduciamo verso il tema, no? Poi sentiamo il mio brano, però intanto ti faccio questa predomanda: ma tu di solito la mattina ti svegli, cioè generalmente, al di là del fatto che ci sono dei giorni meglio, dei giorni peggio, no? Però generalmente quando tu ti svegli incazzato o ti svegli sereno? Allora, io generalmente mi sveglio sereno per un semplice fatto: prima mi svegliavo molto più incazzato. Perché ti sei svegliato, diciamo che sono svegliato, vedi, già è qualcosa. Già mi sono svegliato. Allora, dipende dal sogno che stavo facendo. Se era un bel sogno e sono alla sveglia, mi incazzo assolutamente, perché sono uno di quelli che se li gode proprio, i propri sogni se li gode a profusione. ma se sono, vabbè, brutti sogni e così, già sono più contento di essere sveglio. Però io prima mi incazzavo molto di più al mio risveglio, poi ho cominciato, diciamo così, a vivere un'altra filosofia, a svegliarmi prima la mattina, a godermi il silenzio, il momento del risveglio. Quindi diciamo che se parto da un momento di serenità personale, perché ripeto, è un momento solo per me, in cui ci sono solamente io, non devo rendere conto a nessuno. Se invece mi devo svegliare assieme a qualcun altro, quest'altra persona mi deve parlare, mi deve chiedere le cose, mi chiede di fare questo, quest'altro, io è tosta. Cioè, già lì mi sono rotto il cazzo 50 volte. Senti, mi chiedono, scusa Leo, ma la mattina, quindi chi pensa al vostro unico signore e padrone, il signor gatto? Non so cosa significhi, però il signor gatto sono i signori gatti, quindi sono già di per sé la cosa è più complicata. Però no, noi abbiamo anche in questo caso abbiamo una soluzione plug and play, perché noi per esempio non dobbiamo stare sempre a rimboccare il cibo dei gatti di merda. Si rimbocca da solo. Abbiamo il... Sì, perché abbiamo preso un coso di plastica, capito, che gli fa cadere le crocchette appena si svuota praticamente la vaschetta, quindi in realtà è tutto molto automatico. Figo, lo voglio anch'io. È assurdo, cioè, faccio questa sponsorizzazione assolutamente non pagata. Rigorosamente non pagata. Rigorosamente non pagata, e potete credere che non sia pagata. Voi cercate Zoo Plus, che è questo sito in cui si possono appunto trovare tutti gli articoli per animali, tra cui mangime e varie appunto cose molto utili come vaschette o giocattoli o cose del genere, che per il prezzo che ha, per la qualità che ha, direi che è un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto se devi prendere magari il bustone di crocchette, però quelle fatte bene, che hanno un alto contenuto di proteine e pochi cereali, insomma, visto che i gatti hanno la tendenza a spaccarsi i reni senza motivo, perché sono creature affascinanti ma de merda, proprio sono costruite male per certe cose. Sì, sono molto delicati. Quindi c'è bisogno chiaramente di cibo fatto un po' bene, ecco, perché altrimenti veramente muoiono. C'è anche un problema di fondo, che i gatti tu gli vuoi dare la migliore alimentazione, ma se il gatto, che è il gatto de merda, giustamente ricordiamocelo, non gli piace quello che tu gli dai, so cazzi, cioè nel senso, sì. Perché io per esempio c'è uno dei due gatti che mangia solo, gli piace mangiare solo la roba che gli fa male, cioè nel senso quella che dovrebbe prendere non la mangia, capito? Quindi è un casino, un gran casino. Però se ci pensi è un po' come gli esseri umani, quindi da questo punto di vista ci assomigliano. Prendi la medicina, no, la voglio la medicina. Giustamente esatto. Walter conosce bene il problema, perché proprio recentemente, insomma, l'ha dovuto affrontare. Purtroppo poi, diciamo, ci siamo passati un po' tutti, perlomeno io non ci ho mai avuto animali domestici, non l'ho mai voluti in generale, però la prima volta che ci ho avuto il gatto e mi è morto il gatto, per me è stato quasi come un figlio, diciamo così, insomma. Sì, decisamente. Però infatti non volevo più animali, cose, e allora Michela ne ha portati in altri tre, diciamo, di animali dentro casa, giustamente. Perché è una sadica, maledetto. Esatto, devi offrire, brutto stronzo. Però questo ci ritorna utile, il discorso che fai sulle crocchette ci ritorna utile, perché appunto anche parlando sempre della trasmissione di Michela, se il tuo gatto di merda non si mangia le crocchette, ci sarà un probabilmente sistema, se lo mangeranno quelli dei rifugi, quindi sempre magari contatti. Con il rifugio per animali comunque più vicino. Sì, non si butta niente, devo dire la verità. Esatto, no? Non si perché deve tutto niente. Viene comunque riutilizzato, soprattutto per tutte le persone che fanno appunto questo tipo di attività e a volte hanno bisogno di certi strumenti, che possono essere coperte, ciotole, cibo anche per gli animali, sì. Che insomma fa sempre comodo. Quindi se ce l'avete, avanzano e magari il vostro animale quello proprio non lo mangia, andate a rifugio magari più vicino, quello che conoscete, e via dicendo. Vabbè, io ci pausiamo un secondo con l'amico Bruce, perché l'amico Bruce ogni tanto ci vuole. E questa è Born to Run, il grande Bruce Springsteen, direttamente da quel rock and roll che ci piacerebbe suonare anche di notte in una radio che magari può passare anche roba copyright, ma purtroppo non è così, lo sapete, e continuerà ad essere così per molto tempo, anche se qualche cosa può cambiare nel prossimo futuro, a secondo anche di quanto i nostri ascoltatori ci vogliono bene, perché è vero, brutto dirlo così, però l'amore verso un progetto si misura con i soldi anche, no? Capito? Quindi l'amore soldo, cioè amore soldo, un po' come la prostituzione, la stessa cosa, no? Quindi dice ciao bella, quanto mi ami, dipende da quanto mi dai, insomma, è quello, è giusto. Aspetta che non ti avevo aperto il canale. Prego, prego. No, stai dicendo che Runtime è una puttana. Sì, sì, beh, assolutamente, cioè Runtime nasce come idea culturale, no? Quella di divulgare, sì, contenuti, però per farlo deve essere anche un po' puttana, insomma, è una puttana, beh, intellettuale, sì, ecco, diciamo così. Ti piace questa definizione? No, quella è una puttana d'alto bordo, invece no, lei è una puttana intellettuale, cioè non è esosa Runtime, capito? Ok, è per tutti, ma insomma, un certo livello. Almeno insomma devi sapere spiccicare due parole, diciamo. Eh beh, quantomeno, mi vuoi portare a cena almeno, cioè, che comportamentazione è mai questa? Ma poi tra l'altro stavo ridendo tra me e me perché Leo ha preparato la cover di questo episodio che sicuramente lui userà nei suoi social, ma io anche la metterò questa mattina quando uscirà la versione podcast di questo episodio, ci sarà questa cover, ma io lo pretendo, cioè ho perso ben 10 secondi della mia, esatto, vita a farlo, si vede che sono 10 secondi le qualità sono sempre, no, però è divertente, mi ha fatto molto ridere. Io per le copertine ci tengo, uso solo programmi di primissima scelta, nel senso che è la prima cosa che ho scelto, che ho trovato qui, e quindi è la prima scelta, vedi, quando mai parola fu più precisa, insomma, vedi. Quale sarebbe questo programma, così almeno edottiamo anche le persone? È un programma difficilissimo, ragazzi, vedete se riuscite a trovarlo, però è quasi introvabile veramente. Si tratta di Paint 3D. Lo sapevo. Va bene, però funziona. Oddio, scusate, mi stavo strozzando. No, perché mentre giustamente mi hanno portato il caffè. Grazie, grazie, grazie tantissime. Insomma, di questo. Bene, Leo, la domanda che ti faccio invece in questo momento è una domanda un po' più impegnativa, è più da buongiorno un cazzo, diciamo così. Sì. Perché se abbiamo detto che ti svegli generalmente sereno, poi dopo, a seconda delle cose che fai, questa serenità prende una direzione piuttosto che un'altra. Quello che vogliamo sapere è che cos'è, diciamo, nella vita, insomma, sì, guardando un po' intorno, senza banalizzare, nel senso, so che tu non lo faresti, perché lo so, però in generale se uno fa una domanda del genere dice la guerra è brutta, no? Cioè, qual è la cosa che proprio ti fa incazzare? Cioè, più che la cosa in sé, è che il motivo per cui le cose ti fanno incazzare, perché sai, le cose stupide o belle e brutte ci staranno sempre, no? Però a te che cos'è che ti fa incazzare? C'è una lista lunga, sicuramente. Io tendo a non estremizzare questo mio sentimento, a non renderlo troppo evidente. Però sì, c'è una lista lunga di cose che mi fanno incazzare. E se dovessi proprio iniziare dalla cosa più superficiale che mi viene in mente, comincerei con tutte quelle persone che in qualche modo... Provo a spiegarmi perché è complessa. C'è una tendenza, soprattutto sui social network, probabilmente l'avete visto, e dato che purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, i social network sono diventati una parte importante delle nostre giornate, volendo non volendo, ecco, c'è una tendenza brutta da parte di alcune persone a estremizzare la loro, così, il loro voler essere, tra virgolette, alternativi, a dire che schifo la vita, la gente, e cominciano con questi questi discorsi allucinanti del tipo no, ma io sono un tipo un po' così che non ci sa stare in mezzo agli altri, no, io ho un problema con, perché la gente che schifo, che mi tocca, così, che ripeto. Vabbè, tipo Walter, perché vi senso. No, aspetta, però un conto è avere un vero problema con queste cose, un altro è vedere questa gente appunto che schifo. Ma sì, schifo. Ho capito, era una battuta. Poi si riempie la bacheca, capito, magari di foto con uscite con gli amici, capito, che sono tutti sorridenti così. Ma allora che cazzo vuoi dalla vita, scusami? Ma allora perché devo stare qui a assorbirmi questa tua fantomatica problematica di stare in mezzo agli altri, ma poi sei il PR dei PR? Cioè, perché dovrei credere veramente che tu hai questo problema? Ecco, quello che io odio è la falsità dietro questi sentimenti di finto così, perché è solamente una ricerca di attenzione da parte del prossimo. Tu mi dirai, vabbè, lo guardi sui social network, è ovvio che sia una ricerca di attenzione costante, e io ti do ragione assolutamente, però c'è un'attenzione e un'attenzione. Questa è pura, capito, è lo stesso giochetto che fanno le persone che vogliono attirarti nella loro trappola dicendoti no vabbè ma è una cosa da niente così, e ti invogliano, capito, a chiedergli no ma dimmi che succede, no? È proprio quell'amo brutto che la gente ti tira per attirarti nella loro trappola dell'attenzione, capito? Vendendoti una cosa che loro dicono no, ma non è niente di che. Poi, ripeto, ti lanciano l'amo, te lo tirano e tu stai lì a dire no, vabbè, ma sono curioso, dimmi cos'è che volevi dirmi, che dici che non è interessante. Magari lo è davvero. Ecco, io odio questo giochetto, sì, questa cosa che fanno le persone. Beh, c'è una scena iconica del cinema italiano, no? Credo che il film fosse Bianca, ma adesso non ricordo bene, la scena quella di Nanni Moretti, no? Lui al telefono che parla col tizio della festa, ma che faccio, vengo, non vengo, no, non vengo, sì. Ma che dici, vengo, ma mi si nota di più se vengo, esatto, mi si nota di più, esatto. se vengo e sto a un angoletto, se non vengo proprio, no, non vengo, vabbè, va dai, vengo, vabbè, no, non vengo, cioè, capito, c'è, cioè, questa scena, esatto, bellissima, esatto, che secondo me in due minuti, in un minuto e mezzo, sintetizza nel modo più estremo queste persone che poi in realtà hanno questa specie di nichilismo che poi è forzato, no? È finto, è più una necessità, no? D'attenzione, come dici tu. Sì, ma soprattutto, cioè, se sei veramente un nichilista, se sei davvero uno che non ama stare in mezzo alle persone, non ci stai. Paradossalmente ci vai in mezzo alle persone. Perché tanto uno si nota di meno in mezzo alla calca che via, perché quando sei via la gente si chiede ah, ma dove sarà, e quindi lo fai apposta per far sì che le persone si chiedano che fine hai fatto. Invece no, hai bisogno di farti vedere, di far sì che la gente, di far sì che alla gente tu possa mancare, capito? Certo. Quindi che si chieda dove sei finita, e questa è una cosa che io detesto, capito? Perché, ripeto, ti sta, Francesco, ci precisa che il film è Ecce Bombo, hai ragione, infatti ero abbastanza sicuro che era Ecce Bombo, solo che c'avevo paura poi di dire una cazzata. Comunque Ecce Bianca adesso diventa. Ecce Bianca, tra l'altro, questa cosa, devo dire la verità, perché poi bisogna anche essere un po' onesti nei confronti delle cose, questo approccio ce l'avevo anche io quando ero adolescente. Però quando sei adolescente è già più comprensibile, no? Per certi, sì, versi, perché c'è questo tentativo di capire in che modo attirare l'attenzione. Magari, sai, l'adolescente si sente sempre un po' più solo rispetto agli altri, meno capito, roba del genere. Quando però c'hai 40 anni, sta cosa diventa patologica. Ecco. Grazie. Prego. È proprio così, è proprio una tendenza brutta che le persone, soprattutto adulte, hanno adesso, cioè in questo preciso momento, proprio perché secondo me gli manca proprio questa cosa qui. Cioè, il social network ti spinge molto verso il tuo lato bambinesco, secondo me, anche, che ne so, questi post fatti verso, che ne so, le persone che gli hanno fatto, immagina che qualcuno ti stia facendo qualcosa di male e poi tu fai sto post senza dire nomi e cognomi, dicendo la falsità che c'è in giro, capito? mettendo nessun riferimento a cose specifiche, perché speri che qualcuno ti chieda, no? No, ma che è successo? Che è successo? No, no, vieni in chat che ti spiego, capito? Ste cose che poi uno le fa alla luce del sole, capito? È esattamente come andare. Oddio, hai raccontato una cosa, hai raccontato una cosa che in loop, e quindi in ridondanza avrò visto decine, ma forse secondo te anche decine di volte, insomma, poi ti spiego, poi ti dico, no? Cioè è come se uno veramente scende in piazza, comincia a strillare, sei tutti stronzi, gente. Ma con chi ce l'hai? Non ce l'ho con te. vieni nell'angoletto che ti spiego con chi ce l'ho. è vero, è assolutamente così. Cioè, allora, per anche dare un senso a questa cosa, diciamo che in generale non è un problema legato ai social network. Il social network in generale, questa continua esposizione, messa in vetrina praticamente del nostro pensiero, delle nostre idee, non ha fatto altro che amplificare degli atteggiamenti che erano già esistenti, no? Però li porta all'ennesima potenza. La cosa forse più brutta è che ha trascinato dentro questi atteggiamenti, come dici te, persone che da adulte in condizioni normali non l'avrebbero mai fatto. No. E quindi c'è anche la meravigliosa puntata che facemmo di Morti di Bestemmie, che secondo me è uno dei programmi più divertenti e secondo me anche più sensati che abbiamo fatto nella nostra storia, nella puntata che è quello che mi ha fatto conoscere Runtime, che tra l'altro c'era questa puntata Bimbi Minchia a 40 anni, no? Cioè, nel senso che alla fine, attenzione, salume. Ma quanto è radiofonico tutto questo, insomma? Tantissimo. Io stanotisco sempre, quindi sì. Tu tossisci, stanotisci, sì. Ma sì, quella si chiama Radio Verità, si chiama così proprio appositamente. E niente, quindi c'è, cioè, questa cosa in effetti è, perché mi è capitato di vedere, soprattutto nel momento che io ho assistito alla nascita di internet, le chat, dove succedeva un po' di tutto, ma quando poi è nato il meccanismo del social network, io mi ricordo agli albori quando c'era Facebook, poi è diventato Netlog, poi insomma sono tutte queste piccole realtà, no? Che da blog diventavano blog social, quindi da WordPress diventavano Facebook, che poi fondamentalmente, e c'era questo atteggiamento che Walter. prego vai. No, stavo leggendo la chat, Walter mi ha fatto ridere. Leggila che no, non si può, no, non lo leggo. Ma sì, si può leggere, te frega Runtime. Vabbè, a parte che l'ho detto, comunque le peggiori puttane. Sì. Non avrei usato questa parola, sì, ma non è solo le peggiori puttane, anche i peggiori coglioni, perché sai quante persone dei 45 anni andavano, vedevano i profili delle ragazze e gli scrivevano le cose in privato perché pensavano che così erano fighi, no? Cioè, nel senso, sì, esatto. Ti faccio il pigiamino di saliva, no? Ste cose così. Mazza, che desiderio erotico che tu scatenavi, che scollatura che c'hai, ti massaggerei dalla mattina alla sera, e tu, che bello, quella si deve sentire proprio una donna super adulata se tu gli dici una cosa del genere, mamma mia, veramente. E questo, insomma, alla fine fa parte, no, di quel modo di approcciarsi, che alla fine poi è anche degenerato, perché nessuno si è costruito poi un'educazione in questo tipo di discorso. Poi generalmente le persone si comportano decentemente, però poi alla fine c'è tutta questa tendenza che dici tu, un po' la necessità dell'attenzione, perché nel mondo dei social quei 5 minuti di popolarità li bramano tutti, e c'è gente che fa veramente di tutto per avere quei 5 minuti di popolarità, e quando dico di tutto, veramente cose anche inimmaginabili. Cioè, io non mi ricordo una delle ultime guerre che c'è stata prima di questa, insomma, no? Oppure il terremoto, lo tsunami. Vi ricordate lo tsunami? C'era questa immagine che io dovevo aver salvato da qualche parte, perché c'era sta tizia su Facebook praticamente che si è fatta la foto a mezzo busto, dove si vedeva metà del viso e prevalentemente si vedeva il décolleté, no? Con le braccia strette così si strizzavano le zinne, no? Che venivano proprio queste belle zinne, belle gonfie, e un pensiero ai bambini dello tsunami, mortacci. E sì, perché la gente che sta vedendo quell'immagine in quel momento sta pensando allo tsunami, esatto. E non a stappare bottiglie di spumante su di te, insomma. cioè, capisci? Cioè, nel senso, non vo- è chiaro che non volevo essere volgare, no? Però che cazzo, cioè, un po' di decenza. Ma poi l'insenso è tutti sotto, ah, hai ragione, quanto sei bella, che poi si mischiavano tra porconi e gente disperata, no? Che giustamente, che si vivono quei 5 secondi di popolarità su questa cosa qua. Quindi hai ragione. Sono assolutamente d'accordo, nella vita normale però abbiamo detto, sintetizzando, anche il fatto che fino a che sei quindicenne lo puoi comprendere, quando c'hai 20 anni insomma, ma quando c'hai 40 anni e fai queste cose, siete tutti farsi, ipocriti, ho cancellato dalla mia lista dell'amici un sacco di gente, e sti cazzi, diciamocelo. Assolutamente sì. Bene, no, bene. Comunque, bene. Contestualizzare che giustamente Walter non si stava in maniera diretta agganciando, scrivendo le peggiori puttane, non si stava agganciando direttamente a questo discorso, ma stranamente ci si è agganciato non volendo in realtà, quindi non era la sua intenzione principale, ma ci ha riaperto una finestra che ci sta assolutamente nel discorso iniziale. Poi ovviamente, se volete capire i riferimenti, non dovete fare altro che andare su Dirette Runtime Radio, il nostro gruppo Telegram, che io riconsiglio sempre ad ogni mia trasmissione, ogni nostra diretta. Sì, quindi... Francesco dice forse voleva allattare i bambini dello tsunami. può essere, guarda, sì, era un gesto materno, tu dici, hai ragione, siamo noi che pensiamo male. Insomma. Hai ragione. Metto un brano. Oh. questi sono i Pastis con Heaven Forbid. Carine queste canzoni, un po' alla Life is Strange, diciamo così, sono questo indie rock molto melodico, molto emotional, diciamo proprio da serie televisiva, ecco, diciamo così, proprio da serie televisiva che ti guardi e ci sono gli adolescenti che si baciano. E bello, no? Belle queste immagini. Direi, sì, sì, direi che poi la colazione è il pastis più importante della giornata. Invece, sempre rimanendo su questo tenore, Leo, sì, però invertendo la questione, qual è invece il comportamento che ti commuove di più, che tu ritieni veramente genuino anche in questo mondo dei social? È tosta questa, perché è difficile disticarsi, All'interno dei social, diciamo, sempre in questo mondo influenzato dai social, non necessariamente nei social. Ah, ok. Quello che mi commuove di più è bella domanda, in effetti non si pensa mai al bene effettivamente che si può trovare in giro. Oddio, a questa non mi hai preparato effettivamente. Inizia tu che intanto ci penso. Beh, a me è sempre quell'atteggiamento materno, no? No, in realtà io penso che, allora, secondo me una cosa è potenzialmente vera, cioè nel senso che tu riconosci, anche se a fatica, poi c'è un grosso margine di possibilità d'errore, le persone che anche un po' maldestramente in realtà esprimono veramente quello che pensano all'interno di un contesto. E maldestramente dico perché magari lo fanno in maniera impropria, usando male il mezzo, oppure perché comunque magari certe espressioni, certi commenti o una certa opinione, un qualcosa che raccontano magari non è adatta al contesto, cioè magari non si rendono conto che magari persone che così in maniera proprio totalmente ingenua magari dicono una cosa di loro stessi che magari altre persone non farebbero, ma non tanto per attirare l'attenzione quanto magari per esprimere un concetto, un qualcosa che alla fine comunque magari gli viene, cioè ci sono persone che magari non scrivono mai, quella volta che scrivono magari la scrivono perché proprio in quel momento sentono proprio l'esigenza di farlo, no? A te questo commuove, dico, cioè ti porta effettivamente alla commozione, diciamo, metaforica? Diciamo che per commozione in questo caso potrei anche mettere la commozione verso l'ingenuità, no? Nel senso, verso la non la purezza, perché non voglio entrare in un contesto, la tenerezza, insomma. Sì, diciamo come posso dire, forse quell'atteggiamento inadeguato che comunque fa capire magari la sincerità in quel momento di quella persona, che in quel momento ha bisogno magari veramente di esprimere quel concetto, e quindi questo gesto, anche magari a volte maldestro, a me per esempio, se fosse di fronte a me, verrebbe da dare una pacca sulla spalla, che è il massimo della mia estrinsecazione emotiva, insomma, diciamo. Tipo, ecco, questa è una delle cose potenzialmente alla Cannavacciuolo, praticamente. Alla Cannavacciuolo, esatto. Tanto Walter ha messo una gif animata che però... Sì, che è un po' un'esemplificazione di quello del tuo discorso, secondo me. No, chi ha messo la poesia del Pacciani, no. Io non so cosa sia, ma sarei quasi tentato di farla ascoltare. No, ma non hai mai sentito la poesia del Pacciani? No, non l'ho mai sentito. No, sì. Ma no, ma è un pezzo di storia italiana, ma non è possibile che tu non l'abbia mai sentito. No, non l'ho mai sentita. Anonimo nobile, no, poi me la sento. Anonimo adesso non mi si... No, Dio, no, vabbè. La poesia del Pacciani è il meme, è il meme, non è un meme, è il meme del nostro paese, cioè okay. Veramente è una cosa imprescindibile. Tra l'altro c'è questa wave che è nata, uso questo termine inglese, che c'è questa ondata, ok, di meme tutto legato a questa poesiola che si può... Ce n'è uno che mi ha fatto spisciare questi giorni, che col processo di Amber Heard e Johnny Depp, e uno lì ha scritto ha portato la sbarra, Johnny Depp ha detto, e poi la trascrizione in inglese della poesia del Pacciani, però che basta, cioè, che poi come si fa a non essere d'accordo con queste parole, capito? È allucinante quanto ancora il Pacciani sia entrato nelle vite anche dei giovanissimi, che non sanno cosa sia il mostro di Firenze, cosa sia veramente tutta quella piccola Italia, ecco. Perché il Pacciani è dentro di noi, tu dici? Beh, allora, spero di no, nel senso, soprattutto spero non sia dentro di noi con un coltello. più che altro, credo che. Oh, la beceranza storia... galoppa qui, eh. Assolutamente. D'altronde buongiorno, è il mattino è il buongiorno un cazzo. Esatto, esatto. Si può fare. Il livello è questo. No, io penso in realtà che, ecco, forse un piccolo cenno di commozione io lo provo quando effettivamente si prendono i legittimi. Aspetta, me la rischio, aspetta. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla Corte d'Assise e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. No, se c'è qualcosa che non devo dire. No, lei non è che non deve dire, lei può dire quello che vuole, ma ora lei mi sta parlando. Mi sente ora? Sì. Ecco. Mi sta parlando di Cristo, della Madonna, dei punti, tutte cose bellissime, per l'amore. No, non l'avevo mai visto. Madonna! Non l'avevo. Cioè, e poi è bello il giudice. Cioè, esatto. lui prova a fare la vittima, no? Sta lì e dice: perché esatto. Se non posso dire niente, questo che, se non cose non posso dire. Poi, però, quello là gli dice: sta a parlare di Cristo dalla Madonna dei defunti. Esatto. Noi condividiamo, ma lei è imputato di 16 omicidi. C'è qualcosa che non posso dire. Mettila senza timore. L'ho fatto. Anzi, Mamma mia, ma perché, allora, ripeto, ecco, questo ti commuove un po', per esempio, cioè, allora, senso... no, non mi commuove la poesia del Pacciani, ovviamente, però mi commuove il fatto che i giovani, soprattutto, anche solamente per il voler fare un meme, comunque, per carità, quindi un intento sicuramente non nobilissimo, ma comunque importante per quanto riguarda la comunicazione di questo secolo, però anche solo per voler fare un meme si prendono elementi effettivamente della cultura, comunque della storia italiana, e si tende comunque a conoscerli molto meglio, proprio sì. Perché lo studio di questi fenomeni, di queste cose che succedono, della storia banalmente, ti porta effettivamente non solo una grande cultura personale, ma anche a capire un contesto. E quando capisci un contesto puoi riderci sopra, puoi farci effettivamente tutta una serie di battute. Perché ovviamente se tu non capisci cosa sia successo, se non sai la storia del mostro di Firenze, se non sai cosa sia successo, chi è il Vanni... Storia che, ricordiamolo, ancora oggi a 30 anni di distanza, 40 anni di distanza, non si è mai fa chiusa. Fa ancora parlare di sé. No, ma non si è proprio mai chiusa, perché non si è mai saputo, esatto, poi che cazzo, esatto, è detto. Quindi questo mi commuove sinceramente, quando la conoscenza diventa una conseguenza, capito, di un sentimento meno nobile, ecco. Quindi solamente per voler fare una battuta uno si informa, studia, divulga. Questa è la cosa che a me commuove sinceramente, quando c'è effettivamente per una cosa bella come il voler far ridere, c'è effettivamente tutta un lavoro dietro di cultura, ecco. Questo a me piace. Guarda, questo mi trova d'accordo, perché quando io vedo per esempio dei giovani, particolarmente giovani, che fanno riferimento a cose che altri comunque molto più grandi di loro e che dovrebbero, insomma, conoscere, tendono ad aver dimenticato, e mi fa molto piacere, perché a volte, sai, quando entri in un circolo, in un contesto, per assomigliare agli altri magari ripeti cose magari così per farti un po' mostra, no? Dall'altra c'è sicuramente un sacco di gente, tanti ragazzi che magari si aggiornano, si informano, sì, e magari rimangono anche affascinati a un certo tipo di storie, perché io comunque ho visto anche ascoltando canzoni o cose del genere, ragazzi magari parlare della storia di Pinelli, no? L'anarchico, che poi sì, tra l'altro tu hai trattato, e tra l'altro il documentario l'abbiamo visto e Michela l'abbiamo acquistato. Bellissimo, mm-hmm, molto bello, secondo me fatto, sì, molto bene, rimane molto asciutto, cioè nel senso non vuole andare a cercare come si fa oggi nei documentari, andare a cercare proprio l'impatto emotivo, anche se poi la ovviamente morbosità, sì, esatto, anche se poi dopo c'è inevitabilmente, perché si parla comunque di un Cristo che un giorno non è più tornato a casa, cioè, e su sta cosa non ci saranno mai parole, no, su sta questione qua. E, tra l'altro Comunque sì, sono d'accordo con te, cioè su questa cosa, ecco, è una cosa che mi emoziona, nel senso che mi fa piacere quando vedo un ragazzo che fa un riferimento, c'ha un comportamento, c'ha una determinata cosa e magari in una sua canzone, in un suo testo, in un suo riferimento richiama comunque un principio di lotta che oggi pare che non esista più. A me per esempio è una cosa che mi emoziona molto, questo lo devo dire, anche perché quando più c'è invecchi... il ricordo attivo, esatto. Cioè quando appunto un fatto non è solamente un fatto, non è solamente storia, ma è anche effettivamente un qualcosa che ha un impatto nel futuro, nel presente. Esatto. Non si parla di culi caldi in panza. Culi caldi in panza. Vabbè, no, è perché peccato, perché poi alla fine il discorso era interessante, però mi ci è caduto l'occhio e non ho potuto fare a meno, insomma. Però sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro ne approfitto per dire che non subito, ma tra qualche settimana ci saranno due puntate importanti di Quando Eravamo Futuro, oltre a quella di questa sera, che ricordiamo parliamo di disabilità nel mondo degli anni 70 e 80 e il modo in cui venivano percepite, assistite e soprattutto che tipo di sensibilità c'era. Una cosa importante, perché ognuno di noi porterà il proprio racconto ed è una cosa interessante. Più ovviamente ci saranno anche i professionisti che ci aiuteranno a capire in che maniera poi il mondo è cambiato da questo punto di vista. Ah sì, cioè chi invitate? Perché sì, ammetto che Quando Eravamo Futuro non è una trasmissione che ascolto spesso, quindi... Che schifo, non si dicono queste cose in diretta, cioè. Però vedi che questo è un incentivo ad ascoltare, esatto. Perché chi avete invitato? Tra l'altro ci sono anche delle puntate molto divertenti, bisogna dire. No, abbiamo invitato Alessandro Patroncini e Francesco Lobby Frontali di Muro, perché lavorando entrambi, Alessandro sicuramente da molto più tempo, all'interno di quello che è il contesto delle cooperative d'assistenza anche nei confronti magari della disabilità o determinate cose, hanno comunque quell'esperienza per poter raccontare, no, questo tipo di cammino che è stato fatto da un certo punto di vista in poi. E quindi questa sera mi raccomando 21:30 live su rantameradio.it e su Twitch poi metteremo i link. E detto questo, invece è importante invece dire che nelle prossime settimane, fra un po' di tempo, faremo due puntate, una proprio sul mostro di Firenze. Sarà una puntata abbastanza particolare, perché raccontare questo tipo di aspetto, il mostro di Firenze e tutti quei grandi gialli irrisolti, poi alla fine, quindi ne faremo, non sarà una puntata dettagliata, perché insomma sono sicuramente dei professionisti meglio di noi, però anche capire che tipo di impatto ha lasciato, no, all'interno della nostra società, e quei piccoli grandi drammi che hanno cambiato secondo me la società, a partire da Alfredino in poi, tutti quegli eventi che hanno mosso le coscienze collettive e vedere che tipo di impatto c'era oggi, cioè c'era allora rispetto a quanto oggi, perché oggi io sono abbastanza convinto che per quanto una situazione come quella ci potrebbe commuovere, secondo me poi alla fine uscirebbe fuori anche dell'ironia, perché oggi è più facile fare ironia, perché siamo tutti un po' più cinicizzati da un certo punto di vista, siamo tutti un po' più imbastarditi, no? Mentre allora per noi era veramente un dramma come fosse nostro. La televisione entrava per la prima volta in quel tipo di contesto e quel contesto entrava direttamente nelle nostre case, quindi voi immaginate che tipo di potenza potesse avere quella storia lì, insomma. E racconteremo anche di queste cose, perché Quando Eravamo Futuro noi, come abbiamo sempre fatto, abbiamo parlato della paura del nucleare ai fumetti, cioè nel senso in generale raccontiamo a 360 gradi quella che è la società degli anni 70-80, che tutti adulano, ma poi alla fine vedremo ci sono pregi e difetti come in tutte le altre realtà, insomma. Quindi potrebbe interessarti, caro Leo. Va bene, colmerò questa mia lacuna. Allora sì, giustamente Francesco dice Pinelli è stata la prima vittima di quella malattia che poi si è tanto diffusa in Russia. Hai ragione. Epidemie su epidemie. La cascatrice, il cascatismo telefinestrismo. Vabbè, ci sentiamo l'ultimo brano e poi andiamo ai saluti. Sì. Premesso che questa è una canzone un po' explicit, quindi... Hold kidding. mi sono accorto che sono le 8 passate, non me ne sono reso conto, quindi questa canzone si chiama What the Dog Can't Have di Zorro, la metteremo la prossima, la metteremo durante sabato. Come di Zorro? Di lui? Lui in persona? Zorro, sì sì, è Zorro proprio, sì. Wow, wow, wow, esatto. Bene ragazzi, io direi che ringrazio Leo per questa bellissima, questo bellissimo crossover che sembrava impegnativo, poi alla fine siamo arrivati alle 8 e neanche ce ne siamo resi conto, perché quando si fanno, allora a me questi crossover mi piacciono perché c'è il confronto, no? Certo, ognuno deve essere concentrato sul proprio show e questa è la cosa fondamentale, però quando capita lo faccio sempre volentieri perché c'è sempre un modo per interagire, insomma, con le altre persone, quindi grazie Leo, grazie. Ma io ringrazio te, io ne farei tantissimi altri di crossover, in realtà farei proprio un giorno a settimana sul serio di... E si potrebbe anche ipotizzare questa cosa, anche per alleggerire il nostro impatto, no? Perché comunque ricordare che prepararsi, per esempio per Leo, prepararsi 3 puntate a settimana, belle toste, belle pregne, insomma, cioè non è una cazzata, insomma. Non è uno scherzo. Si rientra quasi nel professionismo in una cosa del genere. Insomma. Detto questo, invece, vi voglio ricordare che questa sera alle ore 20 c'è l'ultimo episodio della settimana di Le Orazioni della Sera con Walter Sbano e subito dopo alle 21.30 ci siamo noi, Quando Eravamo Futuro, dove parleremo appunto delle disabilità. Domani mattina invece torna per l'ultimo giorno della settimana anche Leo, giustamente dalle 7 alle 8 con Il Mattino all'ora in podcast, e parleremo di Downton Abbey. Downton Abbey, aspetta che... è quello Downton irlandese. Abbey, esatto, sì, esatto. Okay. È Downton Abbey di cui ho visto, sono andato a vedere al cinema l'ultimo film. Ok, mi interessa, bene, mi fa piacere. Ci racconterai, ascolteremo sicuramente volentieri. Detto questo, io vi ringrazio a tutti, vi ricordo sempre di andare su www.runtimeradio.it, cliccare sul tasto anche io e sostenere il nostro progetto con una donazione, una tantum su PayPal, oppure con una donazione ricorrente su Patreon, perché come abbiamo detto in maniera in particolare in questo periodo veramente non abbiamo mai visto così poca pecunia arrivare, insomma, dagli advertising. Detto questo, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, ringrazio Leo Vargion, che risalutiamo e ci vediamo, lo ascoltiamo domattina. Ciao a tutti e buongiorno un cazzo, e mi raccomando, state bene.